Io vivo a Savazza, che è una frazione di Monterenzio, e la frazione è completamente divisa da Monterenzio da una sana che si è mangiata la strada via Idice, che è l'arteria che poi porta a Bologna. In tutta via Idice ci sono tantissime frane, piccole, grandi, alcune in movimento ancora, altre no. Il problema è che appunto Savazza è completamente bloccata, quindi oggi per esempio io sono riuscita a venire a lavorare in Valsamoggia passando da Castel San Pietro, quindi la Valle del Sillaro, però è una strada pericolosa perché ci sono anche là frane in movimento, quindi è proprio una grande situazione. Adesso se libereranno la Val di Zena per esempio ci saranno più possibilità per le persone che sono rimaste bloccate per giorni. Ma avete ricevuto comunicazioni da parte delle autorità in questi giorni su come comportarvi? Allora, si è creato un gruppo che non è ufficiale, però in cui ci scambiamo le informazioni sulla viabilità, sui pericoli, e anche per darsi una mano a vicenda, e poi c'è l'applicazione del comune di Monterenzi in cui danno informazioni sulla viabilità e non, ecco, hanno evacuato qualcuno a Monterenzio e anche a Savazza, però tendenzialmente non siamo stati colpiti direttamente da frane. Molti torrenti sono stati deviati dalle frane, quindi per esempio davanti a casa avevo un fiume di fango che rischiava di entrare in casa di altre persone. L'Idice aveva una portata ovviamente elevata, però per fortuna non è esondato in quel punto, essendo un Appennino, appunto, scende giù. Nelle prossime ore, anzi già adesso, insomma, stanno cominciando a piovere, siete preoccupati che possa, come dire, franare ancora? Sì, ci sono frane appunto ancora in movimento, adesso ha ripreso a piovere, quindi sì, la preoccupazione è quella. Per esempio dall'altra parte della frana grande, quindi dalla parte di Monterenzio, c'è una frana che si sta muovendo, la strada è riaperta, però è pericoloso perché si vede che sta scendendo ancora a terra, a fango, quindi non sappiamo per quanto rimarrà aperta e quando risistemeranno tutto.